9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, la puntata di oggi, martedì 29 marzo, è dedicata alle vicende libiche. Siamo in attesa di avere con noi ospite il ministro degli esteri Franco Frattini, che rimane collegato con noi mentre sta partendo per Londra. In questa prima parte con lui daremo un giudizio sull'evoluzione di come a livello internazionale si considera lo sviluppo sul campo. Sapete che da qualche giorno, grazie allo scudo aereo, le forze insurrezioniste sono impegnate in una marcia verso ovest, cioè ad avvicinarsi città dopo città costiera di nuovo verso la Tripolitania. E oggi a Londra c'è una... inizia Lancaster House una consultazione di diverse decine di paesi che sono membri della coalizione per immaginare il post Libia e per immaginare però e valutare insieme anche quello che sta avvenendo in Nord Africa e nel Medio Oriente. E ciò che però inevitabilmente costituirà inizio della nostra riflessione con il ministro degli esteri è quello che trovate commentato su molti giornali di oggi, perché in vista proprio di questo incontro di Londra, ieri si è tenuta una videoconferenza a quattro sulla Libia e si è tenuta con il presidente degli Stati Uniti Obama, Sarkozy per la Francia, David Cameron per il Regno Unito e Angela Merkel, che come sapete per la Germania però rappresenta un paese che si è astenuto sulla risoluzione 1973 relativa alla Libia, si è astenuta insieme ai paesi del BRIC, cioè insieme alla Cina, Russia, India e Brasile, e si è tirata indietro dalla coalizione. All'inizio sembrava che il dispositivo navale tedesco fosse nel Mediterraneo, poi ha ritirato anche quello. I giornali oggi partono proprio dal commento di questa videoconferenza 4. Il Corriere della Sera gli dedica addirittura un editoriale in prima pagina, che parla di schiaffo ingiustificato, lo firma Franco Venturini e dice: a un certo punto è inevitabile pensare che abbia prevalso un doppio desiderio nei quattro paesi che hanno escluso l'Italia, quello di rafforzare l'intesa franco-britannica già rinsaldata ieri con una dichiarazione 2, l'altro di rilanciare il rapporto franco-tedesco, che serve, malgrado le sconfitte elettorali, quelle che si sono tenute domenica scorsa alle elezioni in due lande importanti in Germania, serve il rapporto franco-tedesco, continua Franco Venturini, tanto a Sarkozy quanto alla Merkel. Mentre Obama, continuo sempre a leggere l'editoriale in prima pagina del Corriere della Sera, mentre Obama, tutto impegnato a fare retromarcia, da queste dispettose alchimie europee deve essersi tenuto alla larga. E se poi il tutto servirà a favorire una redistribuzione degli accordi petroliferi, nessuno dei convitati si metterà a piangere. Come vedete, quindi, nel commento di Venturini del Corriere della Sera si affaccia uno dei temi che è sempre stato ben presente nella differenza di posizioni molto netta tra Italia e Francia intorno a come la Francia fin dall'inizio ha sviluppato le sue azioni militari, e cioè l'intento della Francia di sostituire il rapporto di strategico che era riservato all'Italia in Libia. Ecco, si è collegato con noi il ministro. Buongiorno ministro Frattini. Buongiorno. Allora, eccomi. Grazie, io ho ricordato che lei ci dedica questi minuti, si sta accingendo a partire per Londra, da Londra poi negli Stati Uniti e poi in Sud America. Cominciamo, stavo ricordando, leggendo l'editoriale del Corriere della Sera, ce n'è anche uno sulla Stampa, il suo commento, la Stampa oggi con Vittorio Emanuele Parsi dice, inizia proprio dicendo: fa bene il ministro Frattini a non dare troppo rilievo a questa conferenza a quattro che si è tenuta ieri, conta di più quello che avviene oggi a Lancaster House. È così secondo lei? Ma è assolutamente evidente che è così. Ieri c'è stato un tentativo da parte di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti di riagganciare una Germania problematica che nel Consiglio di sicurezza aveva votato in difformità dall'intervento internazionale, non lo aveva condiviso, ha confermato che non si vuole impegnare nella missione internazionale. Credo fosse necessario da parte degli altri tre membri del Consiglio di sicurezza cercare di fare quello che molti di noi abbiamo fatto, l'ho fatto anch'io a livello bilaterale, contattando i tedeschi e evidentemente ottenendo sempre una risposta molto chiara: noi non parteciperemo a questa missione internazionale. Ma un tentativo evidentemente era necessario, quindi non era certo un incontro, una videoconferenza per prendere decisioni o per fare alcunché. E oggi a Londra, tra poche ore, invece si prenderanno le decisioni, ci sarà un gruppo di contatto permanente in cui ovviamente l'Italia ci sarà, e quello sarà il gruppo decisionale. Ministro, ieri sera alcuni milioni di italiani hanno potuto a Rai 1 ascoltare entrambe le fonti in diretta, cioè il ministro, il vice ministro della giustizia in rappresentanza delle autorità fedeli a Gheddafi da Tripoli e il numero uno degli insorti, l'ex ministro della giustizia, dialogare a distanza ma rispondere alle stesse domande. E la sensazione è stata che, sia pure con una garanzia militare sempre della coalizione, però che insomma possa essere non troppo lontani dalla possibilità di una azione che possa anche attraverso la diplomazia e non solo attraverso il dispositivo militare far arrivare a una svolta. Qual è la via secondo la posizione italiana oggi? Un'azione affidata per esempio alla missione dell'Organizzazione degli Stati Africani di cui si parla, oppure una molteplicità di iniziative? Noi vediamo tre azioni necessarie. La prima, una garanzia del cessate il fuoco sul terreno, perché evidentemente senza questo è difficile sedersi a un tavolo e purtroppo le truppe di Gheddafi continuano a sparare. La seconda tappa indispensabile è che il consiglio temporaneo di Bengasi, io proprio ieri pomeriggio avevo parlato ancora una volta al telefono con il signor Jalil, che è il presidente di questo consiglio temporaneo, prenda un'iniziativa di riconciliazione nazionale. Quel consiglio temporaneo viene ritenuto un interlocutore affidabile per la comunità internazionale e quindi sono i libici, cioè loro, a dover prendere un'iniziativa politica dall'interno. Terzo, dall'esterno, l'Unione Africana. Io sono convinto che l'Unione Africana abbia delle chance, perché evidentemente se una missione politica spiegherà un'ennesima volta al colonnello Gheddafi che lui deve lasciare perché nessuno lo considera più un interlocutore affidabile, si combineranno tre fattori: l'azione di protezione umanitaria della NATO, un'iniziativa libica politica da Bengasi, un'azione internazionale sotto l'egida dell'Unione Africana. Questi tre fattori potrebbero portare al successo. Nell'ambito dei paesi musulmani, nei paesi arabi e medio orientali, bisogna distinguere, ovviamente la Turchia per esempio fa parte della NATO, ma all'inizio era molto critica, poi è sembrata riavvicinarsi. Al suo giudizio, al giudizio del governo italiano, il ruolo della Turchia insieme a quello dell'Italia può avere un ruolo diverso fino a quello che fino a questo momento si è visto nei confronti della situazione libica? Certamente sì, proprio ieri ho sentito il mio collega turco che si trovava ieri in Iraq e oggi lo troverò di nuovo a Londra e ho parlato con lui dell'idea di un corridoio umanitario, di un'azione che l'Italia ha svolto già a livello nazionale con due navi che hanno portato aiuti umanitari proprio a Bengasi, ma la Turchia ha una grande tradizione di conoscenza del terreno libico e soprattutto avendo detto che non si vuole impegnare, ad esempio, nella missione aerea di no-fly zone, ben potrebbe collaborare ad un intervento umanitario. Un intervento umanitario che è necessario, perché purtroppo pensiamo a una città come Misurata, dove gli attacchi stanno finendo fortunatamente, ma quello che resta sono macerie, gli ospedali sono inutilizzabili, quindi un aiuto umanitario la Turchia certamente, oltre ad un impegno navale mediterraneo, lo può fare. Per la situazione che si verrà a creare se auspicabilmente si va verso un cessate il fuoco, a prescindere da questo, con la Libia nuova, vediamo se sarà il coordinamento di Bengasi a rappresentarla davvero, ma con la Libia nuova, l'opinione sua che si è fatta nei contatti Ieri sera, tra l'altro, il suo personaggio politico numero uno ha riconosciuto che è stato il governo italiano il primo a farsi vivo con loro, quindi nei contatti politici. Ma lei pensa che si potrà andare incontro a una conferma a proposito degli interessi italiani dei trattati e degli impegni precedenti, compresi quelli energetici e delle imprese, oppure ciò su cui i giornali si intrattengono da settimane, sulla concorrenza tra sistemi paesi, a cominciare da quella francese, avrà davvero poi una traduzione nella realtà? Io non lo credo affatto. Noi confermeremo semplicemente le posizioni che attualmente abbiamo. L'Italia non a caso ha insistito sul fatto che il trattato di amicizia lega i due popoli e quindi non è cancellato per la crisi attuale, è sospeso. Quando la nuova Libia tornerà ad essere un interlocutore normale, affidabile, quel trattato di amicizia con tutti gli obblighi e con i diritti che noi abbiamo acquisito verrà certamente a riprendere efficacia e riprenderemo ad attuarlo. Questa è una conferma data anche pubblicamente dal signor Jibril, che è il responsabile del governo provvisorio di Bengasi, che io incontrerò stamattina a Londra. In quello che parlava è Jalil, che è il presidente, questo altro signore che tra l'altro è un professore di università americana che era fuggito e poi è tornato nel suo paese, ha assunto il controllo del governo di Bengasi, e con lui abbiamo già detto con chiarissimi termini che quel contratto, quegli accordi, quel trattato che lega i popoli riprenderà effetto normalmente con loro, cioè con la nuova Libia. Nei contatti con i paesi della coalizione, con le altre capitali, nel dispositivo avviatosi con le due risoluzioni dell'ONU, collateralmente a questo, immaginiamo capiti anche di effettuare valutazioni sul resto della situazione in corso, su quanto poi avviene in Bahrain, quanto avviene in Yemen, quanto avviene in Siria. Ecco, questo quadro, che valutazioni porta da parte italiana? Noi abbiamo espresso grandissima preoccupazione per tutte queste crisi che si stanno manifestando e che erano inevitabili. Io ho detto molte volte che la democrazia è un bene contagioso, quando lo si conosce poi la si vuole, la si cerca, allora è ovvio che anche la Siria, anche il Bahrain avrebbero evidentemente mostrato ai loro giovani, ai loro popoli questa voglia di libertà. Le preoccupazioni abbiamo detto il Bahrain, quindi lavori. Mi sa che la qualità del collegamento sta degradando, infatti non riusciamo più a sentirla, perché classicamente di solito sei sull'autostrada quando c'è il cambio di cella, a quel punto la linea è caduta. Proviamo un secondo mentre proviamo a ristabilire un secondo il contatto, perché non so se fosse arrivato in aeroporto il ministro. Stavo dicendo, a un certo punto quando il collegamento si è ripristinato, il commento di Vittorio Emanuele Parsi, che insieme alla stampa, insieme a quello del Corriere e quello che trovate oggi in prima pagina, dedicato alla posizione politica italiana nel concerto dei diversi paesi, il titolo della stampa era sgarbo grave, non decisivo. Stavo citando l'Incipit, che diceva: fa bene Franco Frattini a sdrammatizzare la teleconferenza che ieri ha raccolto intorno a un tavolo virtuale i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, apparentemente per predisporre l'agenda del vertice di Londra. Ha probabilmente ragione il ministro degli esteri a sostenere che lì non stanno decidendo niente. Come vedete, il Manuel Parsi non si tira indietro da un giudizio che potrebbe poi farlo apparire persin troppo filo governativo, perché c'è chi ritiene che invece in questa vicenda il governo italiano abbia rivelato la sua debolezza internazionale. Ma poi continua Vittorio Emanuele Parsi: ma in ogni caso resta evidente lo sgarbo grave dell'esclusione del paese dal quale partono gran parte dei raid che stanno facendo a pezzi l'apparato militare di Gheddafi. Si è ripristinata la linea? No, non si è ripristinata, e quindi con ogni probabilità noi dobbiamo considerare esaurito il collegamento con il ministro Frattini. Ripeto, l'atteggiamento e le critiche in queste settimane sono state una parte che non si può trascurare per la posizione italiana, definita incerta, indoggiante, definita una posizione dai critici della parte dell'opposizione nella quale ha pesato troppo il passato dei rapporti con il regime di Gheddafi, ma un passato che poi ricostruito, è stato un passato che ha abbinato dai governi della prima repubblica ai governi di ogni colore della seconda l'Italia nella posizione di sanare quello che era il suo debito storico nei confronti dell'eredità colonialista. Si è ripristinato il collegamento, diceva Frattini, della valutazione nei confronti degli altri paesi, parlava della democrazia certo, come di un contagio. La preoccupazione ovviamente c'è, la democrazia è un contagio positivo, evidentemente la differenza con la Libia è che la Libia ha mostrato carri armati, aerei da combattimento che sparavano sul popolo, sulle case, sugli ospedali. Questo ha imposto l'intervento umanitario delle Nazioni Unite. E senta, Ministro, io lo so che è un po' improprio, ma le devo chiedere anche un giudizio. Le sembra che le polemiche da parte dell'opposizione, che hanno parlato di una posizione del governo ondeggiante rispetto ai paesi leader, poi hanno detto che anche nei confronti della Francia, con cui non erano d'accordo, la posizione del governo italiano non ha aiutato a mitigarne l'eccesso di interventismo. In ogni caso, una parola sulle polemiche interne rispetto al governo gliela devo chiedere. Lei che pensa? Ma guardi, le polemiche strumentali indeboliscono l'Italia, non il governo Berlusconi che in questo momento governa l'Italia. Io dico solo le cose che sono i fatti. L'Italia ha fortemente voluto il comando della NATO, altri paesi non lo volevano, lo abbiamo invece ottenuto. Secondo, ha ottenuto a Napoli la sede del comando dell'intera operazione. Terzo, ha ottenuto con un ammiraglio italiano il comando dell'operazione navale della NATO. Quarto, abbiamo ottenuto a Roma il quartier generale operativo della missione umanitaria che l'Unione Europea farà partire parallelamente alla missione della NATO. Questi sono fatti che spazzano via ogni tipo di polemica. E ohimè, hanno spazzato anche via il collegamento. Bene, a questo punto noi ringraziamo il ministro Frattini e gli auguriamo una buona missione. Naturalmente nelle diverse edizioni del giornale radio, oggi con le diverse trasmissioni di Radio 24, continueremo a informarvi sull'evoluzione di ciò che deriverà da Londra e seguiremo naturalmente anche con i nostri corrispondenti poi il ministro nel suo viaggio a Washington, dove si incontra con Hillary Clinton. Poi prosegue il viaggio del ministro Frattini nei giorni successivi, mercoledì e giovedì, prima a Montevideo in Uruguay e poi in Argentina con il presidente Kirchner. Sentiamo al volo due ascoltatori prima di andare in pubblicità. C'è Claudio che è in linea da Prato. Prego Claudio. Carissimo Giannino, ma lei mi fa scappare il ministro, siamo messi male, era lui l'oggetto della domanda. La domanda è lo so, ma ahimè è caduto il collegamento. Ma la sua potenza di Diego di Novello, Diego della Vega, detto Zorro, dovrebbe essere sufficiente a bloccarlo. Non ci riesco, posso fare solo la parte di Bernardo Muto io. Beh, mi sembra giusto, ascolti. Ma sia una volta il ministro eterodosso, dica delle cose un po' diverse dal solito. Semplicemente questa è la considerazione che vorrei sottoporre alla sua attenzione. E cioè quali? 50.000 profughi, saltanti, disperati, pagano circa $5.000 a testa per venire qua, ok? Sì. Quindi sono 25 milioni di euro, se non vado errato, di dollari all'incirca, giusto? Sì. E allora, mi consenta, invece di andare a impicciarsi costantemente in questa continua autoreferenzialità occidentale che rischia sempre di cadere nel colonialismo, perché una volta tanto Frattino fa l'eterodosso? Cioè, andiamo a prendere coloro che gestiscono questo traffico. Traffico si chiamerebbe di vita. Polizia internazionale e siamo in condizione di farlo, perché lei sa meglio di me, ben gentile Giannino, che se lei un giorno o l'altro decidesse di esibirsi qualche in un nude look, Echelon la fotograferebbe e gli manderebbe la fotografia. Con i mezzi che abbiamo noi sappiamo tutto di tutti, per cui non vedo che sia difficile andare a prenderli e sbatterli contro un muro, giusto? In teoria immagino che gli stati della coalizione che hanno votato il dispositivo pensano di fare quello che dice lei, ma anche pensando un po' alle popolazioni non bombardate della Libia. Come e perché? Lei crede davvero? Guardi che pecunia non Olet. I famosi 25 milioni di dollari non restano in Libia, No, certo, rimangono nelle mani di chi gestisce quel traffico. E noi abbiamo fatto oggi il conto, leggerà un editoriale sul Messaggero, io ho aggiornato i conti di quanto è costata all'Italia la lotta e il contrasto all'immigrazione clandestina da che noi ci confrontiamo con quel fenomeno. Troverà i costi per l'amministrazione pubblica, sia dei CIE che dei CPT, il totale, il fenomeno dell'immigrazione clandestina è costato al contribuente italiano più di 10 miliardi di euro. E noi non è una cifra gonfiata, perché penso di esserci andato per difetto e non per eccesso, perché non ci ho voluto mettere dentro anche le stime, perché sono solo stime, del costo al Servizio Sanitario Nazionale dei servizi prestati, non quelli di prima assistenza, quelli sono inglobati nei costi dei centri, ma quelli ordinari che al Servizio Sanitario Nazionale dà agli immigrati non in regola. Oltre 10 miliardi di euro è costato all'Italia fino a questo momento il contrasto all'immigrazione clandestina. L'Europa, per capirci, ci dà 16 milioni ogni due anni per i rimpatri e 3 milioni per i profughi. Questa è la diversa ordine di grandezza di ciò che ci dà l'Europa. C'è il ministro che si è ricollegato, un secondo, prego. Speriamo che la rete telefonica romana ci perdoni ancora. Lo stato delle infrastrutture è questo, ma è inutile questo lamentarsene. È. Allora, stavamo dicendo, signor Ministro, lei stava dando una risposta a ma sì, ecco. Io stavo indicando dei fatti. L'Italia ha chiesto e ottenuto con forza che il comando fosse della NATO, non fosse quel comando anglo-francese che era stato prospettato all'inizio. Abbiamo chiesto e ottenuto che la base del comando della NATO fosse come è oggi a Napoli, cioè in Italia, e che il comando della missione navale della NATO fosse affidato tra l'altro ad un ammiraglio italiano. Infine abbiamo ottenuto il quartier generale operativo a Roma per la missione dell'Unione Europea, la missione umanitaria che parallelamente alla NATO viene elaborata proprio in questi giorni e sarà lanciata prossimamente. Questi sono fatti che, come dire, eliminano qualsiasi sterile polemica, perché chiaramente è il riconoscimento del ruolo ovvio che la geografia ci ha regalato, centrale dell'Italia per affrontare la crisi libica. Posso chiedere due ultime cose brevi? Ma certo. Con la Francia tocca a lei vedersela con Alain Juppé, che peraltro io avendolo conosciuto è un gentiluomo d'altri tempi e non bizzoso come altri suoi predecessori, oppure il Presidente del Consiglio direttamente con Sarkozy? E anche in Germania, a questo punto il livello dell'interlocuzione è tra ministri o tra premier? Beh, ognuno fa ovviamente la sua parte. Sabato scorso il Presidente del Consiglio ha avuto incontri a margine del Consiglio europeo con i suoi omologhi, ma la questione viene affrontata normalmente da noi ministri degli esteri, che ci vediamo molto più di frequente. Come dire, in un mese oggi i ministri degli esteri interessati a questa iniziativa si sono incontrati almeno 5 volte, ecco, tanto per dare un'idea. Va bene, allora noi le diamo gli auguri di buona missione. Grazie. E speriamo che i libici ci guadagnino prima ancora che gli interessi italiani siano tutelati. Io non ho esitazioni nel dirlo, l'interesse nazionale esiste, sia pure nel concerto delle nazioni, e io preferisco quello italiano a quello francese. Auguri, ministro, pubblicità. Grazie. Eccoci tornati in studio, abbiamo sentito il ministro Frattini, sentiamo ancora... Prima di allargare il nostro punto di visuale alle altre capitali del dispositivo internazionale in Libia, sentiamo ancora qualche ascoltatore. Cominciamo con Luca, che ci chiama da Milano. Prego Luca. Sì, buongiorno Oscar. Io avevo una domanda per il ministro Frattini. Mentre ero al telefono, lui ha elogiato tutta una serie di medaglie che gli hanno appuntato sul petto per il comando a Napoli, il comando a Roma, eccetera eccetera, ma la domanda è: queste sono cose che, come l'unica cosa giusta che ho sentito dire da Frattini, reale corrispondente, è che ci ha regalato la geografia. Ma dove voleva che si faceva il comando di questa operazione? A Düsseldorf, a Parigi, sulle scogliere di Dover? È normale che sia stato dato a Napoli. E come è anche normale che il comando reale delle operazioni sia americano, francese, inglese, con l'appoggio dei tedeschi, perché i tedeschi a questo punto sono gli unici che hanno il grano, il soldo per poter finanziare queste operazioni. Per tutto Luca, il resto, con l'appoggio, non hanno votato la risoluzione, non fanno parte del dispositivo i tedeschi. La Angela Merkel, di esponenti del suo partito, a casa sua ha detto: ha indebolito l'Europa, hai tradito gli interessi del nostro paese. Quindi non è che la Germania è lì in prima fila. Anzi, la tesi di Frattini è che la videoconferenza di ieri, gli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, è stata fatta perché quei tre paesi membri del Consiglio di Sicurezza hanno tentato di ricoinvolgere la Germania, insomma, ecco. Sì, però mi permetto, io lavoro con l'estero, no? Ho a che fare molto e mi capita di essere di andare molte volte all'estero e per il tipo di politica che si sta facendo in Italia abbiamo perso credibilità anche sotto il punto di vista economico. Anche sotto il punto di vista economico ti guardano con una faccia poverino italiano, capisce qual è la sensazione brutta? No, a me è evidente, anche a me, per i miei contatti esteri, che l'abbiamo persa non so quanto in più per la Libia, questo io non sono in grado di valutare perché in questi ultimi anni, ma prima avevo toccato con mano una caduta verticale dell'Italia per le sue vicende politiche, per quelle del Premier, per la vicenda di Ruby, delle notti di Arcole, cioè sono cose che sul mondo rimbalzano ed effettivamente all'immagine dell'Italia la ridicolizzano. Questo ma è, lei sa qual è la risposta che a volte ottengo quando chiamo magari dei clienti con i quali o fornitori con i quali ho un rapporto? Hi Luca, how are you? Fine. What about Berlusconi Bunga Bunga? Ma io sono il primo che lo riconosco, cioè chi dice di no vive sulla luna, quello è un danno terribile all'immagine e agli interessi degli italiani, delle imprese italiane che sui mercati si combattono come leoni malgrado le condizioni che noi gli garantiamo. Quindi io, Luca, in questo le do ragione. Non so quanto in più abbia eventualmente aggiunto sull'immagine italiana all'estero la vicenda libica del coinvolgimento passato, anche perché sa, noi il coinvolgimento con Gheddafi e il suo regime, il trattato, la visita in Italia e la presenza del capitale libico nelle imprese e nelle banche italiane l'abbiamo trattata alla luce del sole. Abbiamo appreso solo di straforo nel corso dell'inizio della crisi libica quanto gli investimenti per oltre 100 miliardi di dollari della Banca Centrale e del Fondo Sovrano Libico fossero presenti in primaria banche e imprese francesi, britanniche, statunitensi, spagnole come la Repsol, British Petroleum, Standard Charter, e noi non sapevamo nulla di quello, non erano dichiarate quelle presenze. Quindi sa, io su questo temo anche che gli italiani siano molto, come si diceva in greco, autontimorumenos, cioè sono punitori di se stessi da questo punto di vista. Gli altri trattano queste vicende con una diversa discrezione, forse anche in questo sono migliori di noi nel saper poi tutelare la propria immagine e anche i propri interessi. Grazie comunque a Luca. Ora procediamo con i nostri ospiti. Abbiamo proprio a proposito di Germania collegato il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Beda Romano. Buongiorno e grazie a Beda Romano. Buongiorno. Come ha visto la stampa tedesca stamane la videoconferenza di ieri? Trova conferma quello che ci diceva Frattini? È stata soprattutto un'iniziativa in cui i tre membri del Consiglio di sicurezza si rivolgevano a chi si è astenuto per tentare di ricoinvolgerlo nel dossier libico oppure no? Ma devo dire che ha avuto pochi echi, in parte perché si è svolta relativamente tardi per i standard giornalistici tedeschi. La posizione tedesca in questo frangente non mi sembra sia cambiata nel corso degli ultimi giorni. Neanche di fronte alle critiche che dal suo stesso partito abbiamo letto sui giornali italiani, non so quanto accuratamente, perché io non ho capito quanto davvero sia stata criticata sui media e da parte del suo stesso partito per la posizione assunta prima al Consiglio di Sicurezza e poi di non partecipazione al dispositivo militare. Ha contato qualcosa nel voto di domenica scorsa la vicenda libica, oppure hanno pesato altri elementi nella sconfitta del cancelliere? Hanno pesato senz'altro altri elementi, in primis direi l'aspetto nucleare, la questione nucleare. Non credo che la questione libica abbia pesato nel voto nel Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato. Peraltro direi che vi è stata una coincidenza nella posizione tedesca tra un'analisi politica sulla questione libica e la strategia elettorale della signora Merkel. Coincidenza che hanno spinto il cancelliere a evitare il coinvolgimento tedesco in Libia e che mi sembra confermato in queste ultime ore. Non vedo da parte del governo tedesco un cambiamento di fronte, proprio perché per ora mi sembra che analisi politica e strategia elettorale siano coincidenti. Un'ultima domanda prima di poi focalizzarci sul significato di queste sconfitte elettorali nel Baden-Württemberg e nell'altro lunedì di domenica scorsa. La decisione tedesca di tenersi collegati all'interno del Consiglio di Sicurezza ai paesi del BRIC, Cina, Russia, India e Brasile, ci fa capire qualche cosa in più, visto che poi la Germania, per esempio, sul raddrizzamento della bilancia dei pagamenti, la rivalutazione dello yuan, la realtà è che sta molto più con la Cina di quanto non sia con la posizione ufficiale, risoluta, americana e anche del resto dell'Europa, oppure dipende semplicemente dal fatto che le elezioni si avvicinavano? Sì, ho letto questa analisi e la trovo seducente, è un'analisi interessante, è evidente che la Germania ha una politica estera globale, ha una politica estera globale per il semplice fatto che ormai i grandi paesi emergenti, la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, l'Indonesia, sono tutti paesi che sono diventati nel corso degli ultimi 5 anni i grandi mercati di sbocco dei prodotti tedeschi. Ed è evidente che da parte della Germania ci sia il desiderio di coltivare i rapporti internazionali con questi paesi. Ma non esagererei. Io credo che dietro alla posizione della signora Merkel al Consiglio di Sicurezza sulla questione libica ci sia stata un'analisi politica dell'intervento militare. Credo che la signora Merkel abbia fatto un'analisi molto precisa, ha visto che secondo lei l'intervento militare era rischioso, lo considerava probabilmente troppo lungo per essere veramente intrapreso, ha avuto il timore che si trasformasse in un altro fronte militare dopo quello iracheno e dopo quello afgano, ha avuto paura della reazione dei paesi arabi, che peraltro è stata confermata successivamente, e credo che ha fondamentalmente detto che non ne valeva la pena. Ha invece insistito molto sulla possibilità di introdurre sanzioni economiche nei confronti del paese e ha insistito molto sull'idea di un embargo petrolifero. Ha visto nell'intervento militare troppi rischi e devo dire che per certi versi non ha avuto torto. Per certi versi non ha avuto torto, eppure i suoi elettori non l'hanno premiata. I suoi elettori non l'hanno premiata, ma non ha la vicenda libica ha giocato un aspetto molto molto limitato. Neanche la marcia indietro sul nucleare mi pare che si abbia cambiato le cose, anzi, visto il risultato elettorale. Assolutamente, lì ha commesso un grande errore. Ho avuto l'impressione, in modo più generale, che la signora Merkel ha dimostrato quanto sia labile la frontiera tra pragmatismo e opportunismo. La signora Merkel ha fatto una brutta marcia indietro sul nucleare che non ha convinto gli elettori tedeschi e che l'hanno punita prima nel Baden-Württemberg e poi nella Renania-Palatinato. Credo che l'aspetto nucleare abbia giocato moltissimo in questa tornata elettorale, perché ha dato nuovo slancio al partito ecologista, che a questo punto può ambire alla presidenza del Baden-Württemberg e governare anche la Renania-Palatinato. Credo che sia veramente l'aspetto nucleare la ragione della sconfitta della signora Merkel domenica scorsa. Brevissimamente, questa Europa con una Merkel più debole e contemporaneamente con gli elettori che anche di fronte ai vertici europei che fissano le nuove regole per il patto di stabilità, per il fondo europeo di stabilizzazione che interviene nel 2013 per i paesi a rischio, comunque le contestano sempre di essere più troppo morbida che troppo dura. Ecco, questa Germania nei confronti di quello che avviene in Europa, a prescindere dalla Libia, per i paesi eurodeboli, con gli spread che salgono, è una Germania che gli elettori dicono alla Merkel di volere come? Più dura ancora? Io credo che gli elettori vorrebbero una signora Merkel più decisionista, in un senso o nell'altro. Alcuni probabilmente vorrebbero una signora Merkel più dura nei confronti dei paesi più fragili della zona euro, altri, oserei dire probabilmente la maggioranza di essi, vorrebbero una signora Merkel comunque più decisionista. Credo che il messaggio di fondo delle elezioni di domenica sul piano politico nazionale è un messaggio di richiesta di leadership da parte del governo. E io ho l'impressione che la signora Merkel negli ultimi tempi, direi, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere ondeggiante, troppo ondeggiante. Naturalmente la situazione politica è stata estremamente difficile, non possiamo negarlo. C'è stata una crisi economica, una crisi finanziaria, una fortissima recessione, a cui si sono poi aggiunti vari eventi, il terremoto in Giappone, l'incidente atomico a Fukushima, la guerra in Libia. Insomma, la situazione è evidente, non è stata facile in questi anni. Però credo che il messaggio di domenica sia un messaggio di richiesta di leadership da parte dell'opinione pubblica tedesca nei confronti di un governo che è stato troppo ondeggiante. Troppo tentennante, va bene, grazie quindi per Beda Romano, il corrispondente del Sole da Francoforte. Adesso abbiamo l'interruzione sulla circolazione stradale e poi concludiamo col punto di vista da Londra e torniamo in Libia col punto di vista di una fonte, un giornalista libico che da anni in Italia collabora con il Corriere della Sera, sostiene il Consiglio Nazionale Transitorio Libico, e quindi torniamo da dove siamo partiti, dalla Libia e dai diritti dei libici contro il regime di Gheddafi. Eccoci tornati in studio, abbiamo con noi Richard Newbury che è saggista, storico, collaboratore del Foglio, personalmente mio grande amico. Chiedo a Richard Newbury, oltre che a salutarlo e ringraziarlo, nel suo paese, in Gran Bretagna, in realtà il coinvolgimento di quel paese nella coalizione è un coinvolgimento presente fin dal primo momento e con un approccio aggressivo, insomma, in termini di aggressività subito dopo quello francese. Come sta orientando il giudizio degli elettori e dell'opinione pubblica? È un fattore di cui parlano molto i giornali e la gente, e sta andando a vantaggio o contro il governo guidato da David Cameron insieme a Nick Clegg? Prima si deve dire, prima dico buongiorno. Prima buongiorno, certo. No, ma che sono tutti e tre partiti a favore di questo. Miliband fa anche un forte sostegno, dicendo anche che tutti e due i suoi genitori sono stati salvati perché arrivavano dal continente come ebrei, prima o dopo la guerra. Quindi in questo il Partito Laburista non ha, almeno su questo, tradito l'eredità blairiana, è ancora interventista. Sono ancora, perché effettivamente questo è stato previsto dal ogni 10 anni l'università del, si può dire, dell'esercito o delle forze armate fanno una vista di cosa succederà fra i prossimi 25 anni, che a che cosa dobbiamo essere preparati. E una delle cose, numero uno sull'elenco di cose, era il problema dell'Africa del Nord e Africa sub-Sahara, e una potenziale invasione a livello contro Roma, del Vandale, per esempio, della stessa direzione, mi sembra una cosa strana, ma è veramente visto che lì proprio c'è un problema, soprattutto perché c'è un grosso problema della popolazione che cresce in modo verticale, pure anche nel Medio Oriente. Certo, quindi almeno i militari britannici non sono stati sorpresi. In una quadratura di minacce che dobbiamo affrontare prima o poi. Ma i britannici nei sondaggi, in quello che si vede sulla stampa, comunque dicono al governo stiamo facendo bene. Sì, per forza, non c'è la volontà di fare questo, ma l'alternativa era una situazione tremenda che proprio noi non siamo nel Mediterraneo, ma è proprio sulla frontiera d'Europa. A proposito di impegno forse più diretto in tutti i paesi che sono stati colpiti dai diversi rivolgimenti che sono in corso, a me colpì molto e rimane a oggi l'unico esempio di leader occidentale che si è recato in Egitto, la visita che David Cameron ha fatto lì incontrandosi con i militari del governo di transizione egiziano, poiché la tenuta dell'Egitto, la tenuta del processo che porterà le elezioni a settembre, del rinnovo della Costituzione, la tenuta dei militari come garanti di questo processo è una tenuta da cui dipende la stabilità dell'intera area, è inutile che ci illudiamo, dipende la stabilità dei rapporti con Israele, dipende l'evoluzione dei rapporti che avranno altri paesi come la Tunisia, ma dipende anche quello che poi tra Siria porta direttamente all'asse verso l'Iran. Ecco, Londra direttamente nei confronti dell'Egitto, come sta articolando la sua vecchia presenza per il mandato coloniale in quel paese? Sì, dobbiamo fare molta attenzione, sì, ovviamente, perché ovviamente qualsiasi cosa che facciamo noi può sembrare sospettata, una cosa coloniale. E, no, e mi pare che il governo ha capito che sta cambiando ovunque. È inutile, è molto simile alla situazione 1960 con l'Italia, la formazione dell'Italia. Ah. O si sostiene come volevano i Tory allora gli austriaci, o si deve andare con i cambiamenti che arrivano. Gli inglesi e i francesi tutti e due sono andati per diversi motivi con i cambiamenti, perché effettivamente non non c'era altro futuro, hanno deciso loro. Allora, Richard Newbury ci fa una specie di complimento, perché ci dice che l'unità d'Italia e la posizione che assunsero i britannici all'epoca nella scelta tra l'imperial regio governo austriaco e lo Stato sardo, la cui espansione poi è stata l'unità d'Italia, è simile ai moti che hanno scosso dall'inizio dell'anno i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. E questo mi consente, io ringrazio e saluto Richard Newbury, di passare in conclusione a Farid Adli, che appunto è un collega libico, conosce bene naturalmente, come non potrebbe essere diversamente, la situazione del suo paese, e a favore del Consiglio Nazionale Transitorio Libico. È veramente così, gli chiedo, molti per settimane, anche nel nostro paese, che pure ha fonti di intelligence e presenze dirette libiche di imprese, grandi imprese come l'ENI, all'inizio non riuscivano a capire davvero quale fosse la natura del movimento di protesta. Molti dicevano: no, sono semplicemente tribù che protestano per una distribuzione su cui non sono d'accordo delle royalty petrolifere, perché troppo vicini agli interessi della Tripolitania, la Cirenaica si considera svantaggiata. Altri dicevano: ma no, ci sono fermenti indecifrabili, perché la cosa senussa, il passato senussita è un passato in qualche maniera di fondamentalismo, chissà, ci potrebbe essere Al-Qaeda dietro. Mi ha molto colpito che per mesi, non per settimane, l'Occidente ha brancolato nel buio per capire davvero chi c'era dietro la protesta e chi ne rappresentava gli elementi. Solo quando esponenti del governo di Gheddafi hanno iniziato a cambiare campo, per così dire, l'Occidente si è rassicurato, perché erano gli esponenti con cui si aveva storicamente a che fare. Da cosa dipende? C'è qualcosa davvero che ci sfugge perché non conosciamo la realtà di quel paese? È una protesta vera? Esiste una classe media che sta dietro coloro che poi, armi alla mano, tentano di andare verso Occidente, cioè di riprendere Tripoli oggi? Ma prima di tutto buongiorno alla redazione, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Credo che l'errore in cui sono cascati molti diplomazie occidentali nel valutare il Consiglio Nazionale Transitorio libico sia originato dal fatto che gli occhi dell'Occidente erano annebbiate dal petrolio, perché gli interessi con Gheddafi erano così forti. La stessa Francia ha un accordo con il governo libico per le centrali nucleari civili, quindi nessuno, non solo l'Italia, ha fatto affari con Gheddafi. La stessa Austria, se la notizia di ieri l'altro, la scoperta di fondi per oltre 30 miliardi di dollari depositati nell'economia austriaca. Io credo che la mancanza di informazioni sull'opposizione libica non era causata da non conoscenza dei fatti, ma dal petrolio, dagli interessi. Ma dagli interessi, perché l'opposizione libica si trova tutta all'estero, perché in Libia non è ammesso in nessun modo a avere una posizione che non sia affiliata al regime. Chiunque scriva anche un articolo di protesta, di critica, non di protesta, certo, di critica, finisce dentro. Io ho un amico che ha fatto 10 anni di carcere per un articolo di critica alla politica economica del governo nel 72, è morto 10 anni dopo in carcere. Questa è la realtà della Libia. L'Occidente la conosceva, perché a Washington, a Londra, a Parigi, a Roma ci sono a Ginevra le sedi dell'opposizione, e le potevano conoscere benissimo, e le conoscevano. Era più comodo dire così quello che è stato detto, quelle nefandezze nei confronti dell'opposizione libica e anche nei confronti del popolo libico, perché sentire ancora, fino a 4 giorni fa, il ministro Frattini sostenere che alla tavola delle trattative bisogna portare le tribù libiche. Cioè, questa è una realtà assolutamente di cultura coloniale, cioè voler rappresentare la Libia come un paese ancora formato da tribù, ma non un paese che cerca di avere di affacciarsi alla modernità. È una lente miope del passato. Bene, a questo punto non resta che sperare di recuperare questa conoscenza che colpevolmente i paesi occidentali hanno mostrato di non avere, poiché in effetti io stesso, nel mio piccolo testimonio Mediterraneo, che da decenni noi conosciamo gli oppositori libici. La Libia spesso ha tentato di eliminarli e li ha eliminati. Nel nostro paese glielo abbiamo consentito anche per quasi 20 anni di farlo, tra l'altro. Quindi sono vicende che dovremmo conoscere bene e speriamo nelle prossime settimane che comunque la sofferenza del popolo libico cessi. Vediamo cosa esce oggi da Londra. Intanto grazie a tutti i nostri ospiti, a Farid Ali, a Richard Newbury, a Beda Romano, a Franco Frattini. Appuntamento a domani, linea Giornale Radio.